L'11 novembre inizierà il nuovo tour dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Pasolini, concerto disegnato. È qui con noi per parlarne Davide Toffolo. Ciao Davide, ti do il benvenuto su Radio Città Fucico. Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori. I Tre Allegri Ragazzi Morti decidono di tornare sul palco con un tour interamente dedicato alla figura di Pasolini. Perché questa scelta e perché proprio Pasolini? Qual è il legame con quest'autore? Beh, il legame è ormai ventennale. Tanti anni fa pubblicai una delle prime graphic novel italiane, per come conoscono oggi, che era dedicata proprio a Pasolini, e questo spettacolo è tratto da quella ricerca. L'abbiamo fatto anche questo ormai tanti anni fa, quest'anno è il centenario della nascita di Pasolini, ce l'hanno chiesto quest'estate, abbiamo fatto due repliche, abbiamo aggiornato un po' rispetto alla tecnologia, risulta comunque una delle nostre, diciamo, dei nostri superpoteri, quelli di lavorare anche con il disegno, ed è per me anche un'esperienza forte quella di stare sul palco disegnando e non soltanto suonando. Proprio in merito a questo si parla di concerto disegnato. Perché la scelta di abbinare musica e immagini sul palco? Da cosa nasce quest'idea? Beh, è nata tanti anni fa al Palazzo delle Esposizioni, una decina di anni fa il Palazzo delle Esposizioni di Roma ha fatto una rassegna di reading fatti da artisti musicali. Noi nella valutazione di quella proposta demmo di farlo invece di parlare, come puoi vedere adesso ho i miei problemi a parlare, invece c'è un superpotere a disegnare, quindi abbiamo deciso di immaginarlo disegnato. Da quello stimolo lì è venuta fuori questa ipotesi. L'esperienza precedente era stata quella del Miami, il Festival di Milano della musica indipendente, dove a un certo punto mi sono accorto che la cosa più interessante era quella di far disegnare i musicisti la musica dal vivo, ed è nato tutto più o meno lì a Milano e con questa occasione del concerto disegnato su Pasolini che adesso riproponiamo. Come riuscirete quindi a strutturare un live in cui il palco diventa a tutti gli effetti l'ospite perfetto per un'opera d'arte? Questo qui non posso svelarti tutti i segreti, dovrete venirlo a vedere e capirete la modalità con la quale giochiamo questa doppia partita. Comunque c'è uno schermo molto grande e io i disegni li faccio tutti analogici, ripresi da una piccola telecamera. Il protagonista principale diventa proprio la costruzione del disegno. Va bene Davide, allora un in bocca al lupo per questo nuovo tour, un saluto. Un saluto forte anche a te e al tuo pubblico.